Torniamo di nuovo in voce, questa volta abbiamo in collegamento una compagna del Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario che ci parlerà dei due incontri a Roma per il 18 e il 19 per organizzare una manifestazione nazionale per il 25 novembre in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L'avevamo già annunciata, ciao, benvenuta. Ciao, ci vuoi raccontare un po' come è venuta l'idea di questo? No, una prima cosa, sì. Per precisione, sia il 18 e il 19, poi spiego meglio, che saranno, no, due momenti di assemblea, approfittando anche del fatto che sia il 18 che il 19, no, ci sono due manifestazioni a Roma. Dice, in queste assemblee è per discutere, organizzare lo sciopero delle donne, sciopero, non sì, scusami, la manifestazione nazionale. Uno sciopero delle donne che appunto sarà il 25 novembre, che tra l'altro quest'anno viene di lunedì. Niente, il problema è questo. Noi da tempo, forse ne abbiamo parlato qualche volta anche alla radio con voi, che poniamo la necessità di uno sciopero delle donne, ma no, che unisca un po' tutte le problematiche, tutta la necessità di rispondere ai vari attacchi sia politici sia ideologici sia e questo poi l'abbiamo ripreso quest'estate quando abbiamo fatto l'iniziativa dei presidi a Roma, un'iniziativa nazionale dei presidi contro il femminicidio, gli stupri contro le donne. E in realtà poi è stato anche ripreso da altre compagne, da altre donne, in particolare delle giornaliste, e quindi diciamo la cosa è andata avanti, no? Ha cominciato anche a rendersi più concreta, più possibile. E quindi è stato indetto questo per il 25 novembre, sciopero delle donne, che chiaramente per noi parte dalla questione oggi più terribile, no? Più anche centrale, delle uccisioni delle donne, che è veramente una guerra di bassa intensità contro le donne, di cui anche a Taranto c'è stato proprio il mese scorso un altro episodio, e parte da questo però per estendersi a tutta la condizione delle donne. E il 18 e il 19 noi quest'estate avevamo visto anche con le altre compagne donne che avevano partecipato la necessità anche di un momento di assemblea nazionale di dibattito, di discussione, perché è da tempo che anche questo non si riusciva a fare. In questa occasione abbiamo in un certo senso visto l'opportunità, giacché il 18 per lo sciopero e manifestazione del sindacalismo di base, chiaramente ci saranno, no, tante lavoratrici precarie, disoccupate, anche noi in quanto lavoratrici ci saremo, eccetera. Il 19 per la manifestazione che vedrà tante compagne di movimenti impegnate, la TAV, Numuros, eccetera. Quindi diciamo, abbiamo visto la necessità di fare in Piazza San Giovanni, siccome in questa piazza ci saranno, no, si rimarrà sia il 18 pomeriggio che il 19 mattina fino all'altra manifestazione, di fare un punto rosso delle donne. Vuoi dirci gli orari di questo punto? Sì, il 18 alle 17 e il 19 alle 10:30. Quindi invitiamo, no, tutte le donne, le lavoratrici che arrivano a Roma o che sono di Roma a incontrarci, a vederci in Piazza San Giovanni. Chiaramente saremo visibili, metteremo striscioni e quindi per discutere anche insieme come far diventare questo sciopero delle donne, che è la prima volta che succede, no? Nel nostro paese, almeno da vari decenni, non c'è mai stato. Ecco, noi vorremmo che fosse un vero sciopero, non solo come qualcuna sì. lo sta proponendo, diciamo, testimonianza spesso individuale. Quindi qualcosa di più riflettuto, articolato, insomma. Per esempio, che su in alcuni posti di lavoro, dove chiaramente la maggioranza sono le donne, dove già c'è qualcosa di organizzato, fare proprio indire, noi indiremo lo sciopero, insomma, no? Allora può essere anche di un'ora, due ore o dell'intera giornata, questo appunto lo vediamo, lo discutiamo, però che sia uno sciopero che incida. Sì, ecco, è che crea soprattutto dei disagi, altrimenti proprio il senso dello sciopero si va a perdere. Certo. Poi l'altra questione è per noi importante il fatto che è uno sciopero che sia non tanto di appello alle istituzioni e quindi in un certo senso non solo di mera richiesta perché facciano o non facciano, ma il problema che sia uno sciopero che imponga il fatto che le donne solo con la lotta, solo con una ribellione possono essere una controtendenza a questa guerra che viene fatta contro le donne, anche perché recentemente, proprio la scorsa settimana, no? Sì. C'è stato il decreto sul femminicidio. Se questo, noi lo sappiamo bene purtroppo, è l'intervento del governo, del Parlamento sulla questione del femminicidio e stupri, non ci interessa, insomma, sì, non è un intervento sicuritario che ci cambierà la vita assolutamente, anche perché, come dicevamo anche noi in apertura, la maggior parte delle volte sono le stesse forze dell'ordine che creano violenza alle donne, quindi insomma la sarebbe anche un discorso abbastanza lungo. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, ribadiamo di nuovo gli orari, magari così le altre se li appuntano. Sì, ripeto, gli orari sono il 18 alle 17 e il 19 alle 10:30 sempre in Piazza San Giovanni. Ripeto, saremo visibili con striscioni e chiediamo, no, alle donne, alle lavoratrici, alle compagne, alle studentesse, eccetera, no, di venire, perché sicuramente il 25 novembre forse ancora non potremo fare, no, uno sciopero in tutte le città, però potremo farlo, come dire, a macchia di leopardo e quindi decidere insieme in alcuni posti di lavoro, in alcune scuole, in alcune realtà di quartiere, e questo lo dobbiamo decidere, certo, insieme, e questo permette di affermare quello che noi diciamo, che il problema è il protagonismo e la ribellione delle donne, contro padroni, governo, stato, uomini che odiano le donne. E su questo ci trovi perfettamente d'accordo, infatti noi speriamo che questi insomma due incontri siano più partecipati possibile. Non so se non vuoi aggiungere nient'altro, noi siamo verso la chiusura dello spazio, ti salutiamo però con l'idea di risentirci la prossima settimana e capire come sono andate queste discussioni. Che d'accordo, dici? Anzi vi invitiamo anche voi a questi due momenti, così non mancheremo. Va bene. Grazie tante, allora in bocca al lupo, ciao ciao.